in primo piano. Buona giornata, buona domenica da Mauro Meazza, benvenuti alla rassegna stampa, ovviamente sui giornali di questa mattina. Campeggia, vince, la spunta, la anticipazione per quanto riguarda la manovra italiana, i conti italiani a Bruxelles, un sostanziale via libera o quantomeno un'anticipazione rispetto al via libera formale che poi ci sarà tra qualche giorno, tra un paio di giorni proprio da Bruxelles. Il Sole 24 Ore in edicola questa mattina titola così: via libera di Bruxelles alla legge di stabilità, riconosciute le circostanze eccezionali. A marzo però una verifica sul fiscal compact. Tanto è vero che Il Giorno, quotidiano nazionale, sceglie un titolo un po' più prudente: la UE ci rimanda a marzo. Una buona notizia: martedì niente bocciatura, una cattiva: tra 4 mesi una nuova verifica. E poi il giudizio sulla manovra italiana, circostanze eccezionali, avanti con le riforme. La manovra appunto che sta in discussione in queste settimane alle Camere, una manovra che contiene diversi punti anche critici, anche di dibattito politico molto intenso, sulla quale però Bruxelles sembra al momento soddisfatta. E allora torniamo un istante sul Sole 24 Ore. Ok, da Bruxelles legge di stabilità, vi dicevo, fonti UE che dicono riconosciute le circostanze eccezionali, a marzo un nuovo esame. Non solo per l'Italia però, precisa il Sole 24 Ore, ma anche per la Francia e il Belgio, altre due economie in difficoltà. Beda Romano ci scrive così da Bruxelles: la Commissione europea dovrebbe dare il via libera al bilancio previsionale dell'Italia per il 2015, secondo le ultime informazioni raccolte a Bruxelles ieri sera. La presentazione delle attese opinioni sui bilanci nazionali è prevista questa settimana, sarà associata a un piano di investimenti da 300 miliardi di euro promesso a suo tempo dal nuovo presidente dell'esecutivo comunitario Jean-Claude Juncker, con l'obiettivo di rilanciare l'economia europea. Il commento laconico ieri sera di un funzionario comunitario dopo una riunione dei capi di gabinetto dei commissari è stato via libera. Precisava qualche ora prima un altro funzionario però: vogliamo toccare con mano gli sforzi sul fronte delle riforme e verificare i risultati di finanza pubblica del 2014. Se confermate queste prime indicazioni, scrive sempre Beda Romano sul Sole 24 Ore, queste prime indicazioni lasciano intendere che la Commissione ha considerato la situazione economica una attenuante e la stessa scelta accomodante sarebbe stata fatta per Belgio e Francia. Questo condizionale che trovate sul Sole 24 Ore, perché appunto si tratta di anticipazioni, non ancora della conferma ufficiale che si avrà soltanto nel corso della settimana che si apre domani. Ma sul Sole 24 Ore oggi a pagina 2 anche una importante intervista realizzata dal vice direttore Fabrizio Forché a Enrico Morando, vice ministro dell'economia, che dice: una situazione di risorse scarse, stiamo facendo il possibile per rilanciare la crescita. Tra le varie cose che vengono chieste al vice ministro dell'economia, anche l'efficacia reale di questo bonus da 80 euro, sapete, si è molto discusso, è servito, non è servito, servirà, perché poi dovrà essere confermato anche per il 2015, servirà a rilanciare in qualche modo, a sostenere i consumi, dice Forché al viceministro. Più passano le settimane, più risulta chiaro che l'impatto sui consumi è stato pressoché nullo. La risposta di Morando è: sono soldi che restano in tasca ai lavoratori, cominciando a ridurre la pressione fiscale sul lavoro. Per i consumi aspettiamo di vedere l'andamento in questo ultimo trimestre. Io resto dell'idea che il problema del 2014 è stato che c'era la sensazione che non si trattasse di un aumento di reddito permanente. Perciò credo sia importante la scelta di stabilizzare il bonus, anche perché ne va della credibilità del governo, è una misura che serve a dare certezza a tutti. Insomma, si torna ancora a parlare di manovra, in qualche modo di legge di stabilità, perché appunto l'ipotesi di stabilizzare, di rendere permanente il bonus degli 80 euro mensili per i lavoratori dipendenti è contenuta proprio nel disegno di legge di stabilità. Chiede poi Forché un'altra delle questioni sollevate in questi giorni dal Sole 24 Ore, tra le varie pressioni fiscali decisamente eccessive, per usare un eufemismo, specialmente sul lavoro, sulle attività economiche, c'è anche l'IMU sui macchinari imbullonati, l'IMU sugli imbullonati, come si dice oramai quasi gergalmente. E Morando assicura che la vicenda sarà chiusa, dice, quella dell'IMU sugli imbullonati, praticamente i macchinari che pagano come se fossero degli immobili veri e propri, è una vicenda paradossale che va chiusa. Assicuro che sarà risolta a prescindere da quanto dovesse costare. Non posso ancora dire se interverremo alla Camera o più probabilmente al Senato, ma lo faremo. A Palazzo Madama affronteremo tutta la questione dell'imposizione sugli immobili, quindi anche tutta la vicenda, come si dice, della local tax, questa tassa unica che dovrebbe farci uscire dal marasma IMU, TASI, TARI e quant'altro in cui siamo piombati nel corso di questo 2014. Tra le altre cose che Forché chiede al Vice Ministro dell'Economia, il TFR, il trattamento di fine rapporto, che sarà possibile su base volontaria, questo è il progetto della legge di stabilità, anticipare in busta paga, ma ci si pagheranno le tasse in modo ad aliquota marginale, cioè insomma sul reddito percepito complessivamente, e quindi con un aumento di fatto della tassazione per il lavoratore. Però, dice Morando, qui è un problema di risorse, però faccio notare che la differenza tra l'aliquota marginale e quella media per i lavoratori con salari più bassi, che sono quelli più interessati, non produce su base annua un aumento significativo di aggravio fiscale. Quindi, anche ammesso che tutto restasse così, si può sperare che l'adesione sia importante. Insomma, detto poi in termini un po' più stringati, la tesi di Morando è vero che il TFR in busta paga sarà tassato come se fosse un aumento di reddito puro e semplice, però per i redditi più bassi questo aumento di tassazione sarà molto contenuto e quindi non dovrebbe essere così sensibile. E questo è uno degli aspetti però della manovra, uno degli aspetti che fanno discutere. Un altro aspetto che fa molto discutere è quello del canone RAI, forse una delle imposte più evase del nostro paese. E il titolo della Repubblica è dedicato proprio, il titolo principale di apertura della Repubblica è dedicato proprio a questo aspetto. Ecco la riforma RAI, al vertice un top manager, il canone nell'IRPEF. Tassa di 65 euro, attualmente siamo al doppio di questa cifra o un poco meno del doppio, in dichiarazione dei redditi oppure nella bolletta elettrica. E poi rivoluzione da gennaio, consiglio di amministrazione a 5 membri e l'ente trattato come una società per azioni. Le anticipazioni di Repubblica di Carmelo Lopapa cominciano così: la rivoluzione RAI si consuma in tre step da portare a compimento con un blitz di poche settimane tra fine dicembre e i primi di gennaio, con un provvedimento lampo del governo. Cambia tutto per Viale Mazzini, ma molto anche per l'utente, che vede quasi dimezzato a 65 euro l'abbonamento. Operazione destinata a mutare la governance della RAI, da sottrarre ai tentacoli politico-parlamentari fino al contratto di servizio pubblico. Per quanto riguarda il canone in bolletta, il canone dovrebbe andare nella dichiarazione dei redditi, quindi essere pagato con l'IRPEF, sarà inserito nella bolletta dell'energia elettrica. Su questo altri giornali peraltro titolano sulle perplessità anche interne alla maggioranza nella opportunità di inserire di collegare il canone RAI alle utenze elettriche. Ma secondo quanto risulta a Repubblica, quanto anticipa Repubblica, sarà inserito una bolletta dell'energia elettrica, ci sarà un emendamento alla legge di stabilità in Senato in modo da rendere operativa la svolta fin da gennaio 2015. La svolta vera starà nell'importo 65 euro che sarà possibile diluire per ciascuna delle bollette, mensile o bimestrale secondo il gestore, fin quasi quindi a sparire nella percezione collettiva. Insomma, diluito un poco al mese o un poco ogni due mesi, il canone RAI dovrebbe essere meno evadibile, se perdonate il termine, e anche più sopportabile dal punto di vista dell'utenza. Ma su questo, vi dicevo, altri giornali sono meno ottimisti, segnalano invece che sul canone RAI non c'è un accordo nella maggioranza. Ad esempio il Messaggero, che magari poi torneremo a leggere dopo la pausa per le condizioni meteorologiche, nuovo canone Rai, maggioranza divisa. In primo piano. E ancora una buona domenica da Mauro Meazza, grazie a Carmelo Lauricella questa mattina in regia per l'indispensabile assistenza. Stavamo parlando di manovra, di legge di stabilità, come sapete la notizia in qualche modo che primeggia già dalla serata di ieri è che ci sarebbe il via libera, ci sarà in settimana il via libera della Unione Europea alla manovra italiana, sarebbero state prese in considerazione le circostanze eccezionali che in qualche modo ci impediscono, ci costringono, ci rendono difficile ridurre il debito così come vorremmo e vorrebbe l'Unione. Tutto questo sarà poi confermato in settimana, anche se questo viene scritto un po' da tutti i giornali, l'Unione Europea poi ci vuole rivedere a marzo per capire se parte delle riforme che sono state avviate e tra l'altro il famoso Jobs Act, cioè le modifiche alle norme sul lavoro, sui licenziamenti, sulle assunzioni, sono state effettivamente varate, sono state rese efficaci. Nel mentre succede tutto questo, internamente alla legge di stabilità si discute anche del canone Rai. Sul canone Rai non c'è grande intesa nella maggioranza, vedendo quello che scrivono i diversi giornali. Nuovo canone Rai, maggioranza divisa, NCD, il nuovo centrodestra, prepara una mozione perché ritiene irricevibile, così scrive il Messaggero questa mattina, l'ipotesi di introdurre il pagamento nella bolletta elettrica, un pagamento automatico che, secondo quanto abbiamo letto su Repubblica sempre questa mattina, potrebbe anche essere spalmato, diluito, rateizzato appunto un tanto al mese, un tanto al bimestre, con una decisa riduzione dell'importo, oggi superiore ai 113 euro, e dal 2015 dovrebbe passare invece a 65 euro. Ma tutto questo è abbastanza dubbio perché appunto all'interno della maggioranza di governo non c'è un'intesa sul punto. Tra l'altro non c'è un'intesa neanche sul fatto che questo canone debba riguardare oppure no solo le prime case o anche le seconde case. Secondo Libero questa mattina il governo impone il canone Rai sulle seconde case. Battaglia con il nuovo centrodestra sull'ipotesi di inserire la gabella, così viene definito, nella bolletta elettrica. No, delle compagnie. La Guardia di Finanza entra in casa, così riassume il quotidiano Libero questa mattina in edicola. Sempre su Libero appunto anche la segnalazione del via libera dalla Commissione Europea, i papaveri di Bruxelles dicono sì alla manovra ma ci rimandano a marzo, la Unione Europea ci farà il tagliando nel 2015, intanto la stabilità consente al Tesoro di mettere a garanzia soldi pubblici sui derivati a copertura del debito, secondo Libero un favore alle banche. Questo sul Libero, torneremo tra qualche momento sul Libero perché vi voglio segnalare un'altra notizia che invece sta sul quotidiano nazionale Il Giorno, una di quelle notizie che l'amico Alessandro Milan, che conduce questo programma da lunedì a venerdì, definirebbe da mani sul volante. E allora mani sul volante perché leggiamo dal quotidiano nazionale: la beffa degli stipendi d'oro salta il tetto per i dipendenti delle Camere. Come sapete c'è un tetto di tipo nazionale per non superare l'importo dei 240.000 euro annui, una cifra che così modestamente parlando ci sembra assolutamente rispettabile. Però Alessandro Farrugia scrive oggi sul quotidiano nazionale che si fa presto a dire tetto, il limite massimo alle retribuzioni lorde introdotto dal governo Monti, rafforzato da quello Renzi, che l'ha portato a 240.000 euro, è oggi uguale per tutti i dipendenti pubblici, però per alcuni è un po' più uguale. È il caso dei dipendenti della Camera e del Senato che, forti dell'autonomia regolamentare del Parlamento, godono di privilegi che gli consentiranno di sforare il tetto. Insomma, il tetto c'è, ma per loro non si applica. Sia chiaro, in tempo di crisi, su indicazione dei presidenti Boldrini e Grasso, gli uffici della Presidenza della Camera e del Senato la sforbiciata l'hanno fatta. Nel triennio risparmieranno quasi 97 milioni, sia Camera e Senato compresi, però i tetti previsti dal riordino non saranno comunque rispettati, cioè 240 mila euro non saranno rispettati, prenderanno un po' di più perché gli stipendi lordi non comprendono, a differenza di quanto accade per i comuni mortali, leggo sempre al Quotidiano Nazionale, gli oneri previdenziali, oneri che sono di 70 mila euro per il segretario generale, 52 mila per i vice segretari e così via, enumerando per le varie cariche. Insomma, in sostanza, si può arrivare, secondo appunto i calcoli che presenta oggi il Quotidiano Nazionale, anche a 350-358 mila euro annui, abbondantemente al di sopra, per dire così, per usare un avverbio poco imbarazzante, abbondantemente al di sopra dei 240 mila euro di tetto massimo fissato per tutti i dipendenti pubblici. E questa era un po' la mani sul volante per quello che riguarda i giornali di oggi. Invece un commento interessante su un'altra delle vicende dolorose più evidenti, più commentate di questi giorni, cioè il processo Eternit. Come sapete, si è concluso con un nulla di fatto per prescrizione a carico del manager Schmidaini, però puntualmente oggi Libero segnala che, nonostante Grasso abbia detto rivedete subito la prescrizione, evitiamo che succedano queste cose, ma Maurizio Belpietro oggi su Libero dice non prendiamo in giro le vittime dell'Eternit perché il processo bis è già morto. Per rimediare ai suoi errori la procura ora vuole accusare il magnate svizzero di omicidio, ma è tardi. Nessuno può essere giudicato due volte per lo stesso reato. E poi scrive appunto su Libero, nessuna legge può essere retroattiva, dunque neppure quella che riguarda il caso della multinazionale elvetica. Dopo essere stata sconfitta in Cassazione, la procura ha deciso di procedere contro i vertici Eternit per omicidio volontario, facendo ciò che avrebbe potuto o dovuto fare anni fa, ma intanto si è perso tempo, 5 anni, 3 gradi di giudizio per ottenere un proscioglimento e un rigetto dei risarcimenti. E questo forse ancora più che la condanna vera e propria è anche la parte che più offende della decisione, peraltro pressoché inevitabile in qualche modo per in forza delle normative da parte dei giudici. Il reato, tra l'altro, comunque il reato del disastro ambientale ha una connotazione decisamente datata rispetto ai danni da inquinamento, è stato un po' ricordato in questi giorni, è un reato che ha più in mente le frane o eventi molto circoscritti, mentre in questo caso siamo di fronte a eventi che si ripetono, che si prolungano, i cui effetti si prolungano molto negli anni, come purtroppo accade per le vittime dell'amianto. E ancora da Libero una ultima segnalazione: gli operai contro Landini, ora basta con gli scioperi, segnala appunto Libero. Alla ST di Terni si spacca il fronte sindacale, proposto un referendum per riaprire i cancelli dell'acciaieria, però a voto segreto per evitare le intimidazioni degli estremisti. Questo scrive Andrea Morigi oggi su Libero, che trovate in edicola. Peraltro il titolo principale di Libero non è dedicato a questa notizia, ma invece al voto in Emilia Romagna, il voto di oggi che, secondo Maurizio Belpietro, può cambiare tutto, perché voci di astensionismo record di fortissima avanzata della Lega, se fossero confermate, metterebbero in difficoltà il governo. Il patto tra lui e Berlusconi salterebbe e prenderebbe corpo invece l'ipotesi di elezioni politiche anticipate. Tutto questo oggi su Libero. E veniamo, cambiamo testata, passiamo al Corriere della Sera. Il Corriere della Sera ha come prima notizia, il primo sì dell'Europa all'Italia, e poi una intervista al presidente egiziano Al-Sisi che annuncia l'impegno dei militari egiziani nello Stato palestinese per garantire la sicurezza. E scrive appunto in questa intervista al Corriere della Sera Franco Venturini, così riferisce le parole del presidente egiziano: siamo pronti a inviare forze militari all'interno di uno Stato palestinese, aiuterebbero la polizia locale, rassicurerebbero gli israeliani. La sicurezza agli israeliani va garantita. È la prima intervista a un quotidiano occidentale del presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, che da oggi è in visita in Italia e al Vaticano. Dice: dopo la creazione di uno Stato, lo strumento migliore per restituire la speranza ai palestinesi, si aprirebbe per il leader egiziano un lungo processo per ristabilire la fiducia tra le parti. Ma noi ora ci fermiamo, ascoltiamo le informazioni sul traffico. In primo piano. E ancora una buona domenica da Mauro Meazza, buona domenica anche a Carmelo Lauricella che questa mattina è in regia. Parliamo molto di manovra questa mattina perché la notizia principale, come sapete, è quella di questo via libera che la anticipazione, insomma, che è stato promesso all'Italia per la settimana che si apre domani, quindi arriverà una conferma ufficiale poi nei primi giorni della prossima settimana. Il via libera, la nostra legge di stabilità, e però anche tutto quello che come dire, ci gira attorno, perché ad esempio la decisione sul canone RAI andrà o non andrà nella bolletta elettrica, sarà o non sarà collegato all'utenza elettrica. Ci sono anche altri aspetti di come dire, recupero delle somme o spending review, anche se è un termine, un anglismo che sembra un pochino in disuso, un pochino in calo in questo momento. Ad esempio il piano scuola, ne parla il Secolo XIX questa mattina in edicola. Il Secolo XIX decide di dare il suo titolo principale alla promozione dell'Unione, che però avverte verifiche a marzo, e poi cita appunto questo caso del canone RAI in bolletta di cui si sta discutendo, vedremo poi come andrà a finire. Ma sul piano scuola scrive: 30.000 precari non insegnano più da anni, saranno stabilizzati ma è allarme perché molti sono impreparati. Come sapete il piano del governo, non collegato direttamente alla legge di stabilità, anche se poi si tratta di trovare uno stanziamento sufficiente per garantire questa stabilizzazione, il piano del governo è di assumere 150.000 precari nel settembre del 2015. Però c'è un problema, ci segnala Francesco Margiocco sul Secolo XIX di questa mattina, perché secondo le stime che sono riportate da Tutto Scuola, almeno 30.000 di questi 150.000, cioè il 20%, da un tempo indefinito non stanno insegnando. Sono stime al ribasso, perché lo stesso governo scrive nel suo piano Buona Scuola che negli ultimi 3 anni circa 43.000 persone iscritte nelle graduatorie ad esaurimento, GAE si chiamano nel gergo burocratico, ebbene negli ultimi 3 anni 43.000 persone non hanno effettuato né supplenze annuali né supplenze brevi. E Francesco Margiocco poi enumera, cita un po' di casi, un po' di testimonianze dirette appunto di questi insegnanti che non insegnano, che magari hanno insegnato ma al momento non insegnano, o non insegnano più da anni, fanno altri lavori o si sono dedicati a tutt'altre cose rispetto all'insegnamento, che però appunto per il quale adesso si prospetta la stabilizzazione, così come segnalato dal governo. Tutto questo sul Secolo XIX di questa mattina, che poi riporta anche in prima pagina un'altra delle notizie di oggi, anzi di questa sera, cioè il viaggio di Samantha Cristoforetti, dell'astronauta italiana. Samantha, il sogno di Star Trek, questa sera il lancio per questo primato, insomma, della prima donna astronauta italiana al decollo. C'è una notizia invece di natura molto diversa, sempre dedicata alla manovra, su Avvenire. Avvenire dedica il suo titolo principale, peraltro, a una vicenda ignorata dagli altri quotidiani, sfollati nel Sahel, un dramma dimenticato. Milioni di persone rischiano la vita per la fame e guerre, l'ONU taglia le razioni. e gli islamisti arruolano manovalanza tra i disperati. E cita poi l'Avvenire in questo suo titolo anche l'orrore jihadista, la strage in Kenya, le stragi in Kenya e in Nigeria, di cui avete sentito anche nei giornali radio di questa mattina e di ieri. Scommesse illegali, adesso il tesoro frena, è però il titolo centrale nella pagina di Avvenire. Di che si tratta? È un altro pezzo della legge di stabilità. In questa legge di stabilità, come sapete, ci sta un po' di tutto quello che può riguardare risparmi o nuove entrate per lo Stato. Una delle ipotesi, perché non è stata presentata ufficialmente, ma su cui si ragiona, è quella di fare una sanatoria per i centri scommesse illegali. Marco Iasevoli e Gianni Santamaria scrivono questa mattina su Avvenire: la pratica appunto per questa sanatoria è istruita, questo nessuno può negarlo. Ci sono 6.500 centri scommesse illegali connessi all'estero contro i circa 3.500 autorizzati. Quindi il Tesoro e il Governo sono un bivio. Provare davvero a combattere e sconfiggere il business nero e grigio, oppure condonare la situazione con una multa di 10.000 euro e il pagamento dei tributi arretrati, autorizzando il proseguo dell'attività degli illegittimi sino al 2016 e incassando, si stima, 500 milioni. Il testo è pressoché scritto, prevede anche la cancellazione e l'aumento del prelievo erariale sulle videolotterie slot e una stangata da mezzo miliardo sui totem che non sono collegati alla rete dei monopoli, anche se ci sono le spinte nel governo per renderlo più severo. Il fatto nuovo è che il Tesoro, dopo le prime polemiche sulle notizie di sanatoria, ora frena sulla possibilità di portare il provvedimento al Senato già all'interno della legge di stabilità. Niente è definito, frena il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, che segue il dossier. Si prende tempo, insomma, si parla di questa sanatoria per le slot illegali, per centri scommesse illegali, ma ancora da parte del governo non c'è stata una decisione e quindi non si sa se questo rientrerà nelle varie correzioni che poi vedremo spuntare di qui a poco prima di Natale, cioè quando la legge di stabilità diventerà definitiva. C'era una ultima notizia che volevo segnalarvi, anzi due. L'una è la Croce Rossa che si privatizza, via tutti i volontari in divisa, troppi debiti, il comandante dice perderemo 20.000 riservisti. Tutto questo sul Messaggero di oggi. La Croce Rossa, in forza di un decreto approvato peraltro nel 2012, faceva parte di alcune misure di spending review, di risparmi, diventa privata dopo 148 anni. Un decreto sancisce la fine del corpo militare che è fondamentale nei soccorsi, quindi i riservisti in divisa, medici e infermieri, non potranno più operare nelle emergenze. C'è preoccupazione naturalmente da parte dei vertici della Croce Rossa, perché costoro diventerebbero l'articolo che di Carlo Mercuri, questi volontari diventerebbero di fatto un'organizzazione acefala senza più una direzione militare e sarebbero destinati in questo modo a scomparire. Questo sul Messaggero. E poi invece su Repubblica, come notizia finale, una pagina che viene intitolata alle nostre password. Oramai siamo abbastanza rassegnati a doverne creare in continuo per iscriverci, per gestire un po' tutti i nostri rapporti informatici. A Tra amori ritrovati e verità dell'anima, ecco la vita segreta delle nostre password, dell'articolo affidato a Stefano Bartezzaghi. Una tabella che corre dall'articolo ci segnala tra l'altro che abbiamo mediamente 5 account, cioè 5 accessi da gestire, e dobbiamo preoccuparci di 24 password come media. Un terzo di noi usa password molto semplici che sono basate su concetti elementari. Un 17% usa la propria data di nascita o il 10% usa il proprio nome. E poi le password più popolari nel mondo sono le serie numeriche del tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 oppure una lista di 1. Questo oggi su Repubblica ed è l'ultima segnalazione per questa mattina. Buona domenica da Mauro Meazza.